Mario 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, canale 10, c'è qualcuno? E ciao, vedete, c'è qualcosa di strano. Hola, hola. Binario 10, c'è qualcuno? K? CQ canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Yeah.